Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Belli. Se sono più numerosi i batteri che popolano il nostro corpo, il cosiddetto microbiota, delle cellule umane che lo compongono. È un dato ormai noto, così come che questi microorganismi sono indispensabili a tutti. Per esempio, è capitato di mandare giù fermenti lattici per qualche problema. Eppure oggi sappiamo poco delle innumerevoli variazioni del microbiota. Ne conosciamo in realtà qualcosa come l'1%, bene, e sappiamo ancora meno delle sue relazioni con lo stato di salute dell'individuo che lo ospita. C'è però un nuovo strumento che promette un balzo in avanti in questi studi, è il microscopio computazionale. Già vi dico, non pensate a un macchinario perché è un software messo a punto dall'Università di Trento. Ne parliamo con il dottor Nicola Segata, che è capo del laboratorio di metagenomica computazionale al Centro di Biologia Integrata dell'Università di Trento. Buonasera Segata. Buonasera a voi. Dunque Segata, voi in pratica state cercando di mappare il microbiota umano, tutte le sue varianti. Intanto c'è un interesse immediato di tipo medico in questi studi. Sì, assolutamente. La diversità microbica che popola il nostro corpo è sicuramente può avere qualcosa a che fare con malattie autoimmuni o comunque malattie immunomediate. La ricerca si sta focalizzando su alcune di queste malattie, soprattutto quelle intestinali, per esempio il morbo di Crohn o la retocolite ulcerosa, ma anche altre malattie più sistemiche come per esempio il diabete. Cioè qui stiamo dicendo che delle variazioni nelle popolazioni di microrganismi che non sono patogeni, però possono in realtà avere degli effetti sulla salute. Sì, stiamo parlando di concause, perché ovviamente queste sono tutte malattie molto complesse, ma ci può essere un fattore ambientale e un fattore che nasce proprio dalla particolarità e la specificità dei batteri che popolano ognuno di noi. Consideriamo che ognuno di noi porta con sé dei microrganismi che sono personali, quindi anche se abbiamo delle specie di batteri in comune tra due persone, molto spesso queste due persone hanno dei ceppi specifici e particolari personalizzati. Ecco, e stiamo parlando di veri ecosistemi, credo con centinaia o migliaia di specie diverse, giusto? Assolutamente, è un ecosistema molto vasto in cui c'è interazione tra queste migliaia, centinaia di batteri che interagiscono sia tra di loro che con la nostra corpo. Ecco, e quindi il problema qui è che non dobbiamo identificare un microorganismo, qui dobbiamo identificare un intero ecosistema sostanzialmente. Veniamo a questa tecnica di mappatura, c'è una procedura in due fasi. Sì, assolutamente, il trucco di base è quello di leggere il DNA per capire quali organismi ci sono. Per fare questo la prima fase è quella di raccolta del campione, quindi raccogliamo per esempio una goccia di saliva umana, dopodiché in laboratorio prepariamo, estraiamo il DNA presente in questi di tutti questi microrganismi? Esatto, di tutta la comunità microbica, estraiamo il DNA e lo sequenziamo con queste nuove macchine di sequenziamento, massivo e parallelo si chiamano. Queste macchine ci producono una quantità enorme di dati, siamo nell'ambito dei big data se vogliamo, e quindi nella seconda fase il nostro lavoro è quello di cercare all'interno di questa grande quantità di dati i segnali che ci dicono quali organismi sono presenti, in quale abbondanza e quali particolari ceppi di questi organismi sono presenti. Ecco, non so se è un esempio azzeccato, ma mi viene in mente questo. È come se voi aveste un migliaio di puzzle diversi, prendeste tutte le tessere, le mescolaste tutte insieme, poi ne prendete un sacco di questi qua e dai frammenti o dalle singole tessere dovreste ricostruire cosa rappresentavano all'origine questi 1000 puzzle. È una roba del genere. Assolutamente, è come il problema che si era posto 15 anni fa quando si è ricostruito il genoma umano, ma molto più complicato perché dobbiamo ricostruire contemporaneamente più genomi, più repertoire genetici partendo da dati che sono mescolati, detto in modo un po' brutale. E questa roba qua che abbiamo descritto ha un nome ed è metagenomica, come il nome del laboratorio che lei dirige. E abbiamo detto un po' come funziona, quali sono i vantaggi più importanti rispetto alle vecchie tecniche? Il grosso vantaggio è che con questa tecnica riusciamo a vedere, almeno in linea di principio, tutti i batteri, tutti i microrganismi, comprendendo anche virus e funghi, presenti in un certo ambiente, per esempio l'intestino umano. Con le tecniche tradizionali riusciamo a vedere solo una piccola parte, potrebbe essere l'1%, il 2%, questo cambia anche da persona a persona, e sono solo quei batteri, quegli organismi che riusciamo a coltivare, in laboratorio, quindi che riusciamo a far crescere diciamo, su dei terreni di coltura, no? Perché alcuni non si riescono a far crescere, magari dipendono a loro volta da altri microorganismi, ed è questo il grande salto in avanti, si può studiare finalmente tutto questo ecosistema. Va bene, per adesso ci fermiamo qui, ma riprenderemo a parlare di questo argomento nella prossima puntata, perché come vedremo anche le città possono essere studiate dal punto di vista del microbiota che le abita. Per intanto grazie Nicola Segata. Grazie a voi. Grazie anche a voi tutti in ascolto per l'attenzione. Da Maurizio Melis, buon fine settimana. Audi è innovazione. Scopri i protagonisti e le loro idee su audiinnovativethinking.it.